Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7-8 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche dei dati diffusi oggi dall'Istat su luglio e agosto, dove secondo l'Istituto di Statistica prosegue la ripresa. Ci sono anche gli aggiornamenti sulla moratoria, o meglio sulla liquidità data agli italiani, e quindi le domande di adesione alla moratoria sui prestiti da un lato, che hanno toccato i 300 miliardi di euro, e dall'altro invece le richieste di garanzia per nuovi finanziamenti bancari, a partire da quelli garantiti al 100% fino a 30.000 euro. Dicevo, di dati di aggiornamento anche dell'Istat, che segnala però un crollo degli investimenti pubblici non da adesso ma dal 2010, e questo poi meriterebbe di una riflessione a parte, perché è chiaro che adesso stiamo spingendo tutti perché il governo presenti, porti a terra un piano entro il 15 ottobre, il meno generico possibile. Poi abbiamo spiegato ieri, lo ha chiarito il commissario Gentiloni, che il piano definitivo dovrà arrivare a Bruxelles entro i primi di gennaio, e poi ci vorranno indicativamente, tra i tempi per la risposta di Bruxelles, l'autorizzazione, il voto, altri 2-3 mesi prima dell'erogazione dei fondi, a partire anche dal 10% che potrà essere anticipato già nel 2021. Ma dicevo, il dato dell'Istat di oggi dovrebbe far riflettere, perché quello che è successo dal 2010 al 2019, quindi in un'epoca pre-Covid ma post, diciamo, crisi finanziaria del 2008-2009, è stato un crollo degli investimenti pubblici meno 19%. Ecco perché se ne sente ulteriormente l'esigenza di una ripartenza degli investimenti pubblici. Per quello che riguarda invece i dati di carattere economico e congiunturale italiano, c'è stato anche l'intervento oggi del ministro Gualtieri, che si attende un forte rimbalzo del PIL italiano nel terzo trimestre. Ha detto che la stima del governo andrà rivista in peggio, purtroppo, dal meno 8%, ma non rivista più di tanto. Segnalo che ieri la Confindustria ha stimato tra il 10 e l'11% il calo del PIL quest'anno previsto per l'Italia. E devo dire che Gualtieri ha anche riconosciuto che tra le cose che non hanno funzionato c'è stata soprattutto la cassa integrazione in deroga, prima che venissero apportati nei decreti successivi, nel decreto rilancio, delle modifiche che permettessero di, e che hanno permesso soprattutto di superare l'imbuto che si era creato nella cassa integrazione in deroga con le regioni, visto che la cassa integrazione in deroga, a differenza delle altre, doveva passare per il vaglio delle regioni. Questo ha creato numerose lungaggini. Parleremo come approfondimento di due settori. Uno è il mercato dell'auto. Ieri in finale di programma, negli ultimi minuti, abbiamo dato le notizie sulle immatricolazioni nel mese di agosto, che hanno visto frenare il crollo del mercato dell'auto. Si tratta di capire però se sia stato un rimbalzo dovuto alla chiusura di marzo, aprile, maggio, o in realtà di un'inversione vera e propria di tendenza, cioè se si sono scaricate su agosto i mancati acquisti per via del lockdown, oppure se invece questo dimostri e dia un segnale di carattere più strutturale, non solo di rimbalzo in senso stretto. Tra l'altro, questo nel giorno in cui sta per essere presentato in Irpinia, a Nusco, provincia di Avellino, la creazione di un polo industriale di cui parleremo, perché è un polo importante sia per i soggetti: c'è un grosso gruppo tedesco, un grosso gruppo italiano e un grosso gruppo cinese nella sua controllata tedesca. L'oggetto è componentistica auto. Sappiamo che per esempio su un'auto tedesca più o meno il 20-21% della componentistica è fatta in Italia, ma soprattutto questo pone un tema che sarà un tema di riflessione, non lo esauriremo certo oggi. Se tra i vari effetti del Covid e della crisi che ha innescato non vi sia anche quello di un accorciamento delle filiere, che per noi potrebbe essere un effetto positivo. Cosa vuol dire accorciamento delle filiere? Che la componentistica, le cosiddette filiere del valore, invece che comprarla necessariamente in Cina o in paesi diciamo distanti, per vari motivi non sia più conveniente per i grandi gruppi accorciare appunto la filiera stessa e tornare a rivolgersi per esempio a una componentistica fatta nel continente europeo. Non sfugge a nessuno che sia più agevole in caso di un eventuale lockdown, o comunque il controllo di quello che avviene è più facile se il fornitore è italiano per un'automobile tedesca o per un'automobile di altro genere, che non un fornitore che si trovi magari in Asia. È ancora presto per dire, secondo me, se si è di fronte anche in questo caso una vera inversione di tendenza, quindi a un accorciamento delle filiere lunghe del valore, che erano state una delle caratteristiche più forti della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta diciamo fino a inizio di quest'anno, e quindi dentro la globalizzazione c'era proprio il principio di filiere lunghissime in cui tu andavi a comprare componentistica o anche il semilavorato dovunque nel mondo fosse più conveniente. I temi legati al rischio geografico, il rischio di nuove chiusure, stanno facendo riflettere i grandi gruppi su una ipotesi di filiere più corte. Di questo parleremo. L'altro settore che torneremo invece ad affrontare è quello del settore turismo, in questo caso turistico alberghiero, perché c'è un'indagine flash oggi di Confindustria Alberghi, è una specie di preconsuntivo sull'andamento da giugno ad agosto. È una situazione molto molto diversa da albergo a albergo, da realtà a realtà, città a città. Quello che lascia perplessi è non tanto il crollo del fatturato alberghiero nelle città d'arte, perché purtroppo ce lo aspettavamo, un ricavi in calo tra il 70 e il 90% rispetto al periodo giugno-agosto, anche perché gli arrivi hanno fatto meno 60%, i pernottamenti meno 70%, e invece quello che si nota è, in maniera positiva lo dico, è che le località balneari hanno fatto un meno 4%, che è obiettivo, meno 40%, scusatemi, e questo lascia perplessi, perché ci aspettavamo un calo minore, nel senso, stando alle notizie che arrivavano, perché meno 40% nelle località balneari, sia in termini di arrivi che di presenze, è comunque un brutto dato. C'era chi ipotizzava un meno 10, meno 20% nelle località balneari e un meno 70-90 nelle città d'arte. Le località montane hanno fatto un meno 30%. Certo, uno può sempre dire che montagna e mare hanno avuto un calo che è la metà o meno della metà rispetto alle città d'arte, ma dal 30-40% anche nei casi migliori è un calo comunque molto molto forte, e ne parleremo. Per quello che riguarda la borsa invece, segnalo che oggi sono tutte ben intonate le borse a livello europeo, più 1,21% Milano, va bene Wall Street che adesso guadagna lo 0,70%, Francoforte fa più 2, Parigi più 1,70, Londra più 1,5, tra i titoli in positivo soprattutto Atlantia. Ci sono indiscrezioni di uno scorporo di Autostrade per l'Italia, il titolo fa più 17%, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Poi Interpump più 7,60%, CNH più 4,70%, Moncler più 4 come Amplifon, Campari più 3,30, Snam più 3, Terna più 2,60, Inuit più 2 come era l'1,80%, lo guadagna invece Prismian ed ST Microelectronics. Fronte opposto, Banco BPM meno 2,13, Saipem meno 1,30 come Unipol, Unicredit meno 1,1 come Eni, Banca Generali meno 1 come Fineco e Tenaris, Buzzi meno 0,90%, euro su dollaro quota 1,18,20, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. A luglio i prezzi della produzione industriale in Europa hanno fatto più 0,6% rispetto al mese precedente, ma sono in flessione del 3,3% sul luglio del 2019. Per quello che riguarda invece la Germania, oggi la Germania ha lanciato il suo primo green bond, un'obbligazione diciamo verde a 10 anni, boom di richieste, 33 miliardi di euro, ossia 5 volte l'ammontare emesso, e la Germania ha praticamente un decimo di questo mercato di obbligazione appunto green, che secondo gli analisti si avvia a dominare il settore. Faccio notare che su questo anche la Grecia è tornata sul mercato e ha collocato oggi 2 miliardi e mezzo di euro di obbligazioni, con grazie alla riapertura del BTP greco decennale lanciato a giugno, e la domanda ha superato i 18 miliardi di euro. Lo segnalo perché c'è chiaramente sul mercato una grossa richiesta di investimenti, c'è una liquidità molto forte che, come diciamo spesso, non sa dove andare, anche perché, e qui non voglio essere frainteso, pure in Italia c'è una parte del paese che sta soffrendo parecchio. Poco fa citavamo i dati del settore alberghiero e anche dei suoi dipendenti, cassa integrazione. Ieri abbiamo avuto una lunga pagina su occupati e disoccupati in attesa, tra virgolette, che si sblocchi il blocco ai licenziamenti, e quindi c'è una parte del paese che sta soffrendo molto. E sarebbe però del tutto improprio dire che è solo così la fotografia del paese. C'è un'altra parte del paese che, vuoi per il pubblico impiego, vuoi anche nel privato, non ha avuto per fortuna licenziamenti. Una parte del paese che ha risparmiato a marzo, aprile e maggio, anche perché era tutto chiuso. Ma non lo dico io, lo dicono i dati sul risparmio gestito e sui depositi bancari. Tant'è che oggi l'industria del risparmio gestito ha fatto sapere che nel secondo trimestre è tornato a crescere il risparmio consegnato al risparmio gestito, una raccolta netta di 11,3 miliardi di euro grazie all'apporto delle gestioni collettive, più 16 miliardi. E mentre nel primo trimestre era stato un deflusso, si era chiuso con un segno negativo per 12 miliardi. Tornando all'Europa, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha detto che i negoziati sul recovery fund, il bilancio europeo, la Germania, che è presidente di turno dell'Unione Europea, li vuole chiudere entro la fine dell'anno, in modo che le risorse possano partire dal gennaio del 2021. Ha detto Scholz che in Europa vi dovrebbe essere una tassazione minima per le società e anche una tassa, la cosiddetta Tobin Tax, sulle transazioni finanziarie e una tassazione minima sulle multinazionali. Sappiamo il tema della concorrenza di alcuni paesi dell'Unione Europea, della concorrenza fiscale, cioè la tassazione soprattutto nelle multinazionali, ne abbiamo parlato molte volte. Altro tema europeo, la Brexit, non faremo un approfondimento su questo, faccio solo notare che il capo negoziatore dell'Unione Europea, Michel Barnier, ha twittato, ha detto: bisogna prepararsi a tutti gli scenari, è in corso un tour virtuale con le capitali dell'Unione Europea per aiutare gli stati membri dell'Europa a prepararsi a tutti gli scenari e gli inevitabili cambiamenti che deriveranno dalla Brexit a partire dal 1 gennaio 2021. E poi Barnier ha detto: dall'inizio di questi negoziati il Regno Unito ha rifiutato di impegnarsi a dare garanzie credibili per una concorrenza aperta e giusta. Qualsiasi partnership commerciale ed economica tra economie così vicine e interconnesse come le nostre devono includere meccanismi credibili e forti per evitare distorsioni commerciali e vantaggi competitivi ingiusti. Ci sono un insieme di regole che adesso non voglio citare, per far sì che appunto non diventi la Gran Bretagna, non faccia dumping, non faccia diciamo concorrenza sleale al resto del continente europeo. Dopodiché, adesso torneremo nelle prossime settimane a occuparci anche della Brexit, faccio notare che la Gran Bretagna in questo momento ha il peggior dato di crollo del PIL dell'intero continente europeo, meno 20%, di gran lunga peggiore nel secondo trimestre rispetto anche all'Italia e non dico la Germania ma anche la Francia, e deve affrontare una Brexit. Io spero che insomma, gli inglesi abbiano fatto bene i loro conti, perché oltre a tutte le difficoltà che tutti i paesi occidentali stanno affrontando come conseguenza del Covid, la Gran Bretagna dovrà affrontare anche la gestione della Brexit, immagino nell'ottica di farsi il meno male possibile. Vediamo i dati italiani. Allora, oggi, nella prima giornata di Cibus Forum alla Fiera di Parma, sono stati presentati dati sull'andamento della spesa alimentare degli italiani, e qui bisogna... I dati sono stati molto influenzati dal fatto che durante il lockdown gli unici esercizi commerciali aperti fossero quelli di carattere alimentare. Però... dice la stessa Federalimentare, guardate che i consumi del paese, l'ho detto il presidente Ivano Vacondio, stanno cambiando e non in meglio. Le vendite di discount alimentari hanno fatto più 7%, dimostrando la tendenza al risparmio dei consumatori che era emersa negli ultimi anni. Ancora c'è un abbassamento qualitativo dei consumi, tra l'altro con una perdita di redditività che dipende dal valore aggiunto che hanno i cibi che vengono comprati, quindi più basso il valore qualitativo del cibo, minore anche, e anche la redditività nella vendita. E ha detto Vacondio, attenzione, perché la spinta principale all'industria alimentare è stata in questi anni l'export, dove il nostro settore industriale dell'industria alimentare ha fatto dei numeri pazzeschi raddoppiando l'export. Su questo sarà fondamentale il contenimento dell'ondata di ritorno dei contagi nei nostri migliori mercati di esportazione. L'altro fronte molto debole riguarda l'Horeca, come si chiama in gergo, cioè hotel, ristorazione e catering. Beh, di questi tre, una brutta gara a chi sta peggio, forse il catering tra hotel e ristorazione, ma anche hotel e ristorazione non sono messi bene, con una ricaduta netta negativa anche per la nostra industria alimentare. Il nostro Andrea Ferro, che ha seguito la presentazione del Cibus Forum alla Fiera di Parma, su questo ha sentito il presidente, amministratore delegato, scusatemi, delle Fiere di Parma, Antonio Ceglie. Ceglie, cosa ci insegna questa emergenza? Ma ci insegna che alcuni cambiamenti potrebbero diventare strutturali e non del tutto nocivi per l'industria alimentare italiana. Il ritorno a essere, non dico dei cuochi, ma quanto dei trasformatori di cibo in casa, favorisce i prodotti di base che sono nei nostri mainstream in tutto il mondo. E come dire, la nuova centralità del cibo, più genuino, più salubre e anche più tradizionale, ovviamente privilegia l'industria alimentare italiana. Quindi nel medio-lungo periodo da questo Covid, quando torneremo alla nuova normalità, ne usciremo come supplier della distribuzione, anche della ristorazione, a cui facciamo grandi auguri di ripresa più presto, come fornitori di riferimento. Quindi arriva un messaggio di speranza in un quadro di grandi incertezze. Sì, dobbiamo per forza cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. Noi siamo un paese manifatturiero, se non avessimo avuto questa capacità, come dire, di intravedere una prospettiva nel saper fare, saremmo finiti tutti a fare il terziario, che mi sembra in questo periodo non abbia goduto ovviamente dei favori del mercato. Quindi il messaggio che ne esce è che saper fare è un vantaggio nel medio e lungo periodo, anche e soprattutto nell'industria alimentare. Allora, vedo molti messaggi sui dati che ho ricordato del settore alberghiero, mi scrivono molti ascoltatori, ma guardate che nella Riviera Romagnola era tutto pieno, a Viareggio impossibile trovare un albergo nei mesi d'agosto, e adesso ne parleremo tra poco. Ultima settimana di agosto in Alto Adige tutto pieno, difficile trovare disponibilità di posti di alberghi e appartamenti, mi scrive appunto adesso un ascoltatore, e pochissime che accettavano il bonus vacanze. Sì, questo lo sappiamo. A proposito dell'Alto Adige, non voglio tornare a lungo sulla polemica di ieri su Compacer, o meglio sull'emendamento che era passato in Senato su proposta della deputata del Sud Tirolo Volkspartei, che prevedeva che per esercitare l'attività medica, la professione medica, scusatemi, in Alto Adige fosse necessaria anche la sola conoscenza della lingua tedesca. Ho visto che questo ha scatenato anche i social. Ieri sera il presidente della provincia di Bolzano, Arno Compascere, è intervenuto a effetto notte con la nostra Roberta Giordano. Sentiamo la spiegazione che ha dato. Una polemica del tutto gratuita e inutile. L'unica cosa che si prevede è l'adeguamento a una direttiva europea che dice che laddove ci sono lingue amministrative oltre alla lingua ufficiale dello Stato, l'esercizio di una professione deve essere ammessa anche a chi conosce quella lingua, se è considerata amministrativa equiparata a quella statale. Per il servizio di sanità pubblica comunque è richiesto la conoscenza della lingua italiana, oltre a quella ovviamente della lingua tedesca. L'unica cosa che si prevede adesso è la possibilità di iscriversi all'Unione dei Medici per esercitare l'attività privata, cioè il cittadino può scegliere o il servizio pubblico dove è garantita la conoscenza della lingua italiana e tedesca, o quello privato dove c'è il medico di lingua italiana o anche un medico tedesco, ovviamente questo lo farà un cittadino di lingua tedesca. Sì, devo dire che mi convince fino a un certo punto, ma la chiudo qui. Ho capito che dice Compascere, abbiamo fatto questo emendamento per non rischiare una condanna davanti alla Corte di Giustizia Europea per il non rispetto di una direttiva europea. Cosa non mi convince? Ho capito che lui dice solo per la sanità privata, per la sanità pubblica comunque avrà il diritto di poter parlare nella propria madrelingua, ma ci mancherebbe. Mentre può scegliere liberamente anche un professionista del settore privato. Sì, vorrei vedere poi l'effetto concreto al di là della teoria, perché se poi, siccome sappiamo che alla sanità privata ci rivolgiamo tutti, delle volte anche per le liste d'attesa, poi posso immaginare che in Alto Adige siano più basse che in altre regioni, ma vorrei capire se poi fra qualche tempo non ci ritroviamo con la stragrande maggioranza della sanità privata che parla solo tedesco in Alto Adige, e quindi di fatto se io sono un italiano, o meglio sono italiani anche gli altoatesini, quindi se sono un cittadino che parla solo l'italiano vivendo in Italia mi ritrovo di fatto a poter scegliere solo la sanità privata, o mi ritroverò di fatto a poter scegliere solo la sanità pubblica, perché quella privata nella stragrande maggioranza dei casi parla solo lingua tedesca. Questo è quello che mi preoccupa. Se poi vogliamo dire che tanto basta la sanità privata, secondo me si potrebbe creare comunque una discriminazione, perché ripeto, avresti cittadino italiano di lingua anche tedesca che può scegliersi il medico privato tedesco, il cittadino italiano di sola lingua italiana, che magari il turista che si trova lì, che potrebbe rischiare di non poter fare una visita privata perché il pediatra, il medico presente privatamente parla solo il tedesco. A me non sembra una grande idea, però. E qualcuno mi dice: guarda che proprio per il bilinguismo trovare medici in Alto Adige è impossibile, quindi le liste d'attesa sono molto più lunghe che altrove. Ok, se seguo il suo ragionamento, siccome resterà difficile trovare medici bilingui in Alto Adige, le liste d'attesa resteranno lunghe e uno potrà rivolgersi al privato, con la differenza che con questo emendamento, non subito ma fra qualche anno, potresti trovare soprattutto in centri magari non grandi, non dico Bolzano, Merano o Brunico, potresti trovare un medico che è privato ma sa solo il tedesco, perché così prevede la normativa, e tu ti attacchi perché voglio capire come si fa a fare una visita non capendo la lingua del medico. A segni, a gesti, col braille, con i disegni. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo e pubblicità, poi iniziamo con Istat, Gualtieri, andamento economico, settore automotive e settore alberghiero. Focus Economia. minuti. Allora, i dati congiunturali, diciamo, sull'andamento dell'economia. L'Istat oggi è intervenuta la Commissione Bilancio della Camera in audizione, sia sull'utilizzo dei fondi del recovery, sia sull'andamento del congiunturale dell'economia. Ha detto che il clima di fiducia delle imprese è aumentato in entrambi i mesi, in tutti i settori economici, anche se i livelli degli indicatori sono ancora inferiori a quelli precedenti alla crisi. soprattutto nei servizi di mercato. Si notano segnali positivi anche dall'aumento dei consumi elettrici e della fatturazione elettronica. Sentiamo un passaggio di questo intervento. Per gli ultimi mesi abbiamo tendenzialmente informazioni qualitative sul clima di fiducia che confermano che siamo in presenza di una ripresa, diciamo. Dopo il rimbalzo si comincia a prefigurare una vera e propria ripresa o risalita. Per quanto riguarda l'economia italiana, come accennavo, nel secondo trimestre il PIL ha registrato una contrazione senza precedenti, -12,8, quindi leggermente più negativa rispetto all'area dell'euro, -18 rispetto al trimestre precedente, determinata dalla caduta dal lato della domanda, una fortissima caduta dei consumi e degli investimenti. Anche per il nostro paese a luglio e agosto abbiamo informazioni ancora frammentate, che tuttavia suggeriscono il proseguimento della fase di ripresa. Questo è importante perché il rischio era che dopo un rimbalzo, diciamo, tecnico in una prima fase successiva all'apertura, poi l'economia tendenzialmente si fermasse su quei livelli e diciamo, non garantisse una spinta ulteriore per recuperare pienamente i livelli precedenti al lockdown. Invece le tendenze espansive sono proseguite anche nei mesi più recenti. E poi l'Istat, come dicevo in apertura, ha fatto notare che dal 2010 gli investimenti pubblici sono crollati del 19%, quindi se sento qualcuno ancora dire che lei vuole un'economia keynesiana, ma di che cosa stiamo parlando? -19% gli investimenti pubblici dal 2010 al 2019, e speriamo che adesso ripartano seriamente, e seriamente vuol dire investimenti produttivi, non soldi improduttivi. O per citare Mario Draghi, ancora non l'ho citato dopo il suo intervento, no? Debito buono, non debito cattivo, quanto mi piace l'italiano di Mario Draghi, e speriamo che ripartano, perché si era già a un livello inaccettabile, un quinto di investimenti pubblici in meno in 9 anni. Nel 2019, infatti, ha confermato l'Istat, la spesa complessiva di investimenti pubblici sta pari a 322 miliardi di euro, lo stesso livello del 2010, però gli investimenti delle amministrazioni pubbliche hanno fatto questi erano gli investimenti complessivi, scusatemi, le amministrazioni pubbliche hanno fatto -19%, mentre il settore privato ha fatto +3,5%. Quindi, se rapportata al PIL, la quota di investimenti pubblici italiani sul PIL è passata dal 3,2% del 2008 al 2,3% del 2019, quindi un punto percentuale di PIL in meno, a un livello uno dei livelli più bassi nell'area euro. E poi l'Istat chiede che venga fatto un monitoraggio sugli interventi del Recovery Fund per, appunto, affinché siano produttivi, ma questo, diciamo, mi sembra assolutamente di buon senso. Il ministro Gualtieri parla oggi di un forte rimbalzo del PIL nel terzo trimestre, il governo stima un forte rimbalzo del PIL e anche dell'occupazione. E quanto al dato annuale, il governo ha messo un -8%, lo stesso Gualtieri ammette, ricordo che la Confindustria ieri in audizione della direttrice generale ha detto non ci aspettiamo un -10, -11, dice sarà peggio nel -8, ma non tanto peggio. Sono dati positivi, anche quello dell'aumento della disoccupazione, tra virgolette, che nei momenti più duri è scesa paradossalmente, semplicemente perché aumentavano gli inattivi, cioè quelli che non cercavano lavoro. Quindi adesso aumentano gli attivi e soprattutto sono aumentati finalmente gli occupati nel mese di luglio di 85.000, che è un segnale limitato naturalmente, ma positivo di una ripresa che noi stimiamo sia in corso in questo terzo trimestre. Poi vedremo i dati tra un po', ma tutti gli indicatori, e quest'ultimo dell'occupazione si aggiunge, ma ce ne sono stati tanti altri, addirittura sul sentimento delle imprese, degli ordinativi, che è una stima molto importante, viene fatta a livello internazionale. L'Italia, cosa rarissima, è stata la prima in Europa, com'è. Quindi ci sono dei segnali che probabilmente noi auspichiamo il terzo trimestre ci sarà un forte rimbalzo del PIL, che è una cosa importante. Più che un rimbalzo per arrivare a quel -8% che avevate immaginato, posso dire, per avvicinarci, perché ecco, quel meno 8 è stato fatto, è stato stimato prima che si sapesse quanto sarebbe durato il lockdown, che è durato più del previsto, giustamente. Quindi poi tutti gli osservatori, tutti i previsori internazionali ci hanno detto, hanno proposto stime lontanissime, molto molto peggiori, 11, meno 12, chi ha detto meno 13 addirittura. Quindi fai un po' peggio e noi invece abbiamo sempre detto sarà sicuramente molto probabilmente peggio del meno 8, ma non così tanto, e questi dati adesso ci sembra che tutti questi previsori stanno dicendo che l'Italia sta facendo un po' meglio del previsto. Allora, così appunto il ministro dell'economia Gualtieri questa mattina su Rai 3 ad Agora. Gualtieri ha anche detto faremo una riforma fiscale per proseguire sulla strada del taglio al cuneo fiscale, quindi aumentare il valore netto degli stipendi. La riforma fiscale non può essere finanziata comunque col Recovery Fund, come ha chiarito ieri il commissario europeo Gentiloni, ma dovrà essere autofinanziata. Ma Gualtieri ha aggiunto c'è ampio spazio, e sul MES, il MES, ha detto decideremo a momento opportuno, per carità. Noi abbiamo sempre detto che faremo, valuteremo il ricorso di questo strumento al momento opportuno. Io ho sempre ricordato e sottolineato che si tratta di uno strumento che da una parte non dà soldi a fondo perduto, dà prestiti, e tuttavia dà prestiti a tasso zero, quindi è come anche parte del Recovery Fund, che sono prestiti, e poi come per esempio SURE. Il MES si colloca in questo quadro, è uno strumento che non è un fondo perduto, ma sono risorse a tasso zero e quindi molto convenienti, che determinerebbero un risparmio in termini di interessi nell'ambito di un orizzonte, dipende dall'orizzonte, ma diciamo appunto di diversi miliardi di euro. A proposito degli strumenti, superano i 300 miliardi di euro le domande di adesione alle moratorie sui prestiti, è una cifra importante. So benissimo che la moratoria vuol dire che hai sospeso il mutuo, non è che non lo paghi, però ricordiamo anche che non pagare le rate del mutuo per alcuni mesi può rappresentare, sostanzialmente viene allungata la scadenza del tuo mutuo, che sia per la casa o che sia un prestito di altro genere. Comunque fa respirare in attesa di tornare a incassare, a avere un po' di liquidità. Hanno superato i 300 miliardi di euro le domande di adesione, mentre le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti sono a quota 75 miliardi. Mi riferisco a quelle fino a 5 milioni, quindi micro, piccole e medie imprese. Invece SACE, che si occupa delle garanzie più alte attraverso appunto Garanzia Italia, ha concesso garanzie per 13 miliardi di euro su 468 richieste ricevute. La stragrande maggioranza delle richieste sono per i mutui, per i prestiti fino a 30.000 euro. Settore auto, perché lo dico? Perché ah sì, è vero, Gualtieri ha anche ricordato che la cassa integrazione in deroga ha funzionato male prima che venisse messo un correttivo dopo il Cura Italia attraverso il decreto rilancio, in modo da poter bypassare le regioni che in alcuni casi rappresentavano l'imbuto burocratico per erogare la cassa integrazione in deroga, che è quella appunto in deroga perché non era prevista anche per le micro imprese fino a un dipendente. Dicevo, mercato dell'auto, allora i dati di ieri hanno visto una frenata nel crollo, meno 0,43% rispetto ad agosto del 2019, 88.800 auto immatricolate, tra l'altro invece Fiat ha fatto un po' peggio, ma qui vorrei parlare del mercato complessivo. Da inizio anno però, rispetto allo stesso periodo del 2019, siamo a un meno 39%. C'è stato un piano di incentivi per l'auto introdotto nel mese di agosto dal governo, che estende gli incentivi anche ai modelli a motore con emissioni di CO2 fino a 110 grammi chilometro. Una seconda fase sarà collegata a ulteriori 400 milioni di aiuti stanziati dal decreto agosto. Saluto per averci raggiunto in collegamento Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Gianprimo. Buonasera Sebastiano. Allora, il mercato recupera, la prima domanda, la Fiat ha fatto peggio, ha fatto meno 2,65% agosto su agosto della 2019. Prima domanda, si tratta, passami il termine, del rimbalzo del gatto morto, o meglio, del fatto che essendo chiusi anche i concessionari, comunque essendo chiuso il paese, marzo, aprile, maggio, fino a metà maggio, ad agosto si sono scaricate anche i non acquisti che uno avrebbe fatto in quei mesi, oppure è una vera inversione di tendenza, magari complici anche gli incentivi decisi dal governo? Non sento pronto, niente. No, aspetta. Pronto? Sì, pronto. Ecco, perfetto. Un piccolo rimbalzo del gatto morto c'è certamente. Però è un'inversione di tendenza, perché questo andamento quasi quasi in pareggio di agosto è da ricondurre soprattutto agli incentivi che sono stati introdotti prima con il decreto rilancio e poi sono stati migliorati in sede di conversione in legge del decreto rilancio. C'è un boom delle motorizzazioni ecologiche. E c'è un boom anche della rete. Allora andiamo sul traffico un attimo e poi cerchiamo di riprendere anche Gianprimo Quagliano, che evidentemente non vediamo se riusciamo a riprendere. Intanto vi do alcuni dati per quello che riguarda Fiat. La flessione del 2,65% di vendite in agosto in Italia. Ecco Gianprimo, ci sei? Sì, sono qua per modo di dire. Allora mi dicevi in parte un rimbalzo, in parte anche invece gli incentivi del governo, visto che le scelte di acquisto si sono orientate su prodotti anche, diciamo, chiamiamoli così, più ecologici? Sì, sui prodotti ecologici gli incentivi sono molto generosi, sui prodotti diciamo meno ecologici, cioè sulle auto Euro 6 con emissioni fino a 110 grammi di CO2 al chilometro, non c'è ancora stata una ripresa perché il mercato è chiuso ancora in perdita anche in agosto, però c'è stata una forte diminuzione del calo e soprattutto poi c'è il fatto che questi incentivi non sono ancora di fatto entrati in vigore perché ci sono stati dei ritardi di carattere burocratico sulla piattaforma dove bisogna registrarsi per avere gli incentivi e quindi partiranno questi incentivi certamente da settembre e secondo le nostre valutazioni il mercato volterà pagina. Non sarà possibile entro la fine dell'anno recuperare i 500.000 e più veicoli che mancano all'appello, ma comunque la situazione migliorerà decisamente. Allora, resta con noi Gianprimo, perché vorrei collegarmi con Nusco in provincia d'Avellino, dove sta per essere annunciato un investimento importantissimo, intanto visto il periodo. Perché l'investimento vale 52 milioni di euro. Sono particolarmente felice che venga fatto nel nostro mezzogiorno, ma non è un mistero che esistono, abbiamo avuto ospite il numero uno dell'Adler in provincia di Napoli, più grande gruppo di componentistica auto che c'è in Italia, uno dei più grandi in Europa, ma un investimento importante che coinvolgerà 150 tecnici operai, verranno formati con stage in Italia e in Germania, 5 linee produttive completamente automatizzate, 10 macchine per ogni linea, con 40.000 metri quadri di cui 14.000 coperti, ma la cosa interessante è che è un accordo, una nuova società che prevede tre soggetti. L'operazione è coordinata dal gruppo italiano SAI. Siamo in collegamento con il vicepresidente di Confindustria, con la delega alle filiere, alle medie imprese, Maurizio Marchesini. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei. Che cos'è il polo SAI e che gruppi coinvolge? Tra l'altro, appunto, mi piace molto il fatto che l'insediamento industriale sia in provincia di Avellino, a Nusco. Ma è una cosa estremamente interessante perché è una joint venture italo-tedesca. Ci sono una società italiana e due società tedesche. Una di queste società tedesche è posseduta da un gruppo enorme cinese e questa joint venture crea un polo nell'automotive, per le forniture automotive, ad Avellino, per la precisione a Nusco, occupando 180 persone. Direi che è assolutamente in controtendenza rispetto all'andamento generale, ma soprattutto soprattutto nel mondo automotive. Ecco, lo scopo di questo polo, appunto, che vedrà i gruppi coinvolti, Bohai, Trimet, società tedesca del gruppo cinese Bike, la Sirpres, che è azienda italiana del gruppo Sira Industry, e appunto la, il gruppo tedesco Schlöte, che è il gruppo leader nella lavorazione meccanica, forniranno componentistica per tutta la filiera o per alcuni clienti solo? No, forniranno inizialmente per un cliente, dopodiché si estenderanno ad altri clienti, ma sono in questo caso soprattutto clienti tedeschi. E vede, questo è estremamente significativo, perché in qualche modo, in un nuovo orizzonte di globalizzazione, con molta probabilità le filiere si accorceranno, però le aziende italiane riusciranno a esistere se sono, come dire, al centro della catena del valore vero di questo tipo di attività. E il modo ideale forse è proprio quello di fare operazioni di questo genere, tipo appunto joint venture e azioni di questo genere. Un'ultima domanda su questo, perché sta appunto per iniziare la presentazione della NUC, non vogliamo trattenerla. Lei diceva appunto, con la nuova globalizzazione, chiamiamola così, le filiere si accorceranno, ci sarà bisogno di avere fornitori più vicini, proprio per alcune lezioni apprese, tra virgolette, dal Covid. Che cosa chiedete, visto che lei è appunto la delega alle filiere, alle medie imprese, al governo, quanto a iniziative sul tema appunto filiere industriali? Ma guardi, intanto mi piace far rilevare che questa nuova presidenza ha una particolare attenzione a questo tema, tanto è vero che ha creato una vicepresidenza con una delega assegnata proprio a me. Al governo di fatto chiediamo di scaricare finalmente a terra, di raccogliere l'occasione della Recovery Fund e di spingere su quelle direttrici, su quelle grandi direttrici che si dà l'Europa, di fatto digitalizzazione, di fatto ricerca e sviluppo, economia green, esattamente quello che si sta facendo con questa iniziativa. Forte automazione, assolutamente una occupazione di livello elevato, noi crediamo di spingere di fatto su delle questioni molto concrete. Allora, in bocca al lupo, tra poco appunto verrà presentata questa soggetto, 180 dipendenti, polo, nel polo industriale di Nusco, in provincia di Avellino, con tre soggetti, uno tedesco-tedesco, una la controllata tedesca del gruppo cinese Bike e l'altra l'azienda italiana Sirpres. Grazie anche a Maurizio Marchesini, appunto vicepresidente di Confindustria con delega alle filiere e alle medie imprese. Grazie a voi. Però Gianprimo Quagliano, il tema che toccava Marchesini, e qui allargo un attimo ai dati solo congiunturali, diciamo, delle immatricolazioni, è un tema fondamentale. Io prima dicevo, no, un quinto più o meno di un'auto tedesca a componentistica italiana. Paradossalmente potrebbe esservi anche un beneficio, vediamo così, uso i termini con parsimonia, positivo da questo ripensamento anche dei grandi produttori tedeschi, ma non solo, sulla lunghezza delle filiere, cioè su quello che era il mantra della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta, hai filiere del valore molto lunghe, vai a prendere la componentistica o semilavorato che sia in Cina, in Vietnam, in Indonesia, dove e poi lo assembli in un altro luogo o ne assembli una parte in un altro luogo e poi dai appunto il semilavorato all'azienda finale. Sì, certamente la tendenza è quella di accorciare le filiere, va detto anche che la componentistica, quando parliamo dell'industria dell'automobile italiana, non parliamo soltanto di fabbriche che producono auto, ma di un settore della componentistica fortissimo. E naturalmente questo settore è sempre più vincolato a fornire in tempi sempre più stretti e sempre più ravvicinati le componenti alle case automobilistiche. La logica del just in time, che si è ormai affermata, certo, da molto tempo, sta subendo un'accelerazione, quindi anche la distanza dal produttore è una cosa che diventa sempre più importante in quanto va ridotta. Questo mi scrivono alcuni ascoltatori, e per concludere, però può avere un impatto sul costo finale, quindi anche sui margini, oltre che non tanto sulla produttività ma sui margini, perché sappiamo che il costo del lavoro per anni è stata una variabile guardata con attenzione. Difficile dirlo, perché i costi, cioè i prezzi di vendita, non si fanno sui costi ma si fanno sulla capacità del mercato di assorbire determinati prezzi, quindi dipenderà da come andrà il mercato, da quanto sarà forte la domanda, e poi qualcuno comunque si avvantaggerà di queste riduzioni di costi. sarà il consumatore o saranno le industrie, non lo sappiamo ancora in questo momento. Però tu la vedi come una tendenza in atto, no? Perché a noi... Sì, è una tendenza in atto, assolutamente. Allora, grazie anche a Gianprimo Quagliano, poi vedremo appunto se vi sarà un proseguo. Ho capito il tuo ragionamento, parte è un rimbalzo, però parte è un'inversione di tendenza sulle immatricolazioni, soprattutto nei modelli, chiamiamoli così, più ecologici, a minore impatto, diciamo, quanto inquinamento. Prima di arrivare al GR24 vi do la chiusura di borsa, poi la commenteremo dopo assieme ai dati del settore alberghiero, più 1,34%, chiusura vicino ai massimi per Milano, Parigi più 1,90%, Francoforte più 2%, Londra più 1,35%, Dow Jones più 0,70%, con il caso a Piazza Affari di Atlantia, ne parleremo dopo GR24, più 16,23% sulle voci di uno scorporo di Autostrade per l'Italia. 349-238-6666 per sms e WhatsApp, GR24. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, una notizia appena battuta che però la dice lunga e dà, a mio avviso, il quadro di quella che è stata la risposta dei vari paesi e quanto alla crisi, all'emergenza causata dal Covid e quanto peserà, anche poi quanto sarà lunga, anche un ritorno, diciamo, alla normalità, almeno nei bilanci. Il debito pubblico americano potrebbe superare per la prima volta dal 1946, quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il 100% del PIL. So che può sembrare strano a noi che siamo abituati, tra virgolette, abituati a convivere con un debito che era al 130 e poi quest'anno, insomma, si stima possa arrivare addirittura a un 148% del PIL. Però negli Stati Uniti il debito, insomma, era sempre stato, l'anno scorso nostro era stato 134,8% del PIL, vediamo quest'anno, appunto, si stima che possa arrivare quasi vicino al 150% del PIL. Negli Stati Uniti non era mai successo, però oggi il Congressional Budget Office ha detto che appunto a fine dell'esercizio fiscale il debito degli Stati Uniti potrebbe arrivare al 100% del PIL. Entrerebbero a questo punto gli Stati Uniti nel poco così invidiabile gruppo dei paesi che hanno un debito superiore al 100%, di cui fanno già parte l'Italia, il Giappone e la Grecia, forse anche la Francia, che viaggiava vicino al 100%, ma vedremo i dati di fine anno. La borsa invece, allora, dicevamo prima del GR24, più 1,34% Milano, buona la chiusura oggi di tutte le borse europee, in parte anche per l'andamento del Dow Jones che adesso fa più 0,70%, e poi c'è invece un caso dentro la borsa italiana che si chiama Atlantia, ma andiamo con ordine. Al di là di Atlantia, bene Interpump più 7,70%, CNH più 4,5%, Amplifon più 4,30%, Campari più 3,40%, Moncler più 3%, Snam più 3%. In negativo invece Banco BPM meno 1,5%, Eni meno 1,30%, Unipol meno 1,20%, Saipem meno 1,1%, Unicredit meno 1% come Tenaris. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Diamo un commento generale, poi arriviamo al caso Atlantia. Dico caso Atlantia perché il titolo ha guadagnato il 16,23%, ma vi arriviamo tra un attimo. Insomma, borse tutte positive, non ho visto delle notizie particolarmente rilevanti, ma forse mi sono sfuggite. No, effettivamente è andato un po' nell'onda lunga di ieri, dove i dati sul manifatturiero americano avevano portato a nuovi record sia l'S&P 500 sia Nasdaq, e questo è un po' continuato, anche se oggi sul fronte macroeconomico americano sono arrivati dati contrastanti, un po' deludente l'indicazione sull'occupazione, il rapporto ADP che anticipa invece poi i dati che arriveranno a fine settimana sul mese di agosto, e invece positivo invece gli ordini all'industria, che sono cresciuti oltre il 6%, e quindi hanno dato un supporto positivo. Milano ha guadagnato oltre l'1%, hanno fatto meglio invece Francoforte e Parigi, in particolare per quanto riguarda i settori. C'è stato un buon andamento del settore chimico e dell'alimentare, ma anche le PLC e le utilities, quindi un rialzo abbastanza trasversale, anche dovuto alla frenata dell'euro nei confronti del dollaro rispetto alla risalita ieri sopra quota 1,20. Oggi si è ritornati verso la zona di 1,18-1,18,27 in questo momento. Allora, veniamo invece ai titoli. Due, perché volevo dare anche i migliori e i peggiori, che qualche giorno che non do. Allora, c'è da un lato Tiscali, che ha fatto un vero e proprio botto, più 69%. Poi c'è Go Internet, più 24,70%, Atlantia, più 16,20%. Visto che sto dando i migliori e i peggiori, do anche i peggiori. Fulsix meno 10, Key Group meno 8%, Trevi meno 7%, 7,5%, Banca Popolare di Sondrio meno 6,70%. Dunque, partiamo da Tiscali. Qui immagino ci sia ancora il tema della rete unica. Sì, assolutamente. Questa notizia è innanzitutto dell'accordo commerciale, quindi accordo strategico con TIM, e che poi potrà tradursi anche in futuro in un ingresso da parte di Tiscali in FiberCop, che è il primo step appunto per arrivare alla rete unica o poi nella società complessiva. Sta dando veramente una spinta diciamo imprevista a Tiscali. Il titolo in poche sedute, in 5 sedute, ha praticamente quadruplicato il suo valore, e oggi in particolare ha messo a segno questo più 70%. È partita effettivamente una speculazione incontrollata, soprattutto perché i dettagli, diciamo così, della eventuale, perché è ancora eventuale, partecipazione di Tiscali proprio dal punto di vista azionario, non solo dal punto di vista commerciale, alla società della rete sono ancora tutti da definire, insomma. E poi andiamo, visto che ci siamo, anche la Popolare di Sondrio, insomma, il calo è abbastanza significativo, quasi il 7%. Sì, il calo Popolare di Sondrio è dovuto al fatto che è stato approvato un emendamento al DL semplificazioni che dovrebbe far slittare, che farà slittare di un anno, cioè al 2021, l'obbligo di trasformazione della società in società per azioni. Il percorso di trasformazione della Sondrio in società per azioni è stato caratterizzato da frenate, da stop and go piuttosto frequenti, ma il mercato credeva che una trasformazione in tempi rapidi fosse propedeutico poi dopo a un riassetto e a una combinazione con altri istituti, soprattutto perché quest'estate il tema delle aggregazioni bancarie è tornato in prima fila. Certo, dopo Intesa UBI è tornato in prima fila. Invece questo ulteriore slittamento ha fatto venir meno la PIL, se non altro temporaneo, del titolo, e per questo si è originato un calo consistente vicino al 7%, come tu ricordavi. E infine, o last but not least, come dicono gli inglesi, Atlantia. Il titolo oggi ha fatto un botto più 16,23%. Anche qui indiscrezioni sullo scorporo di Autostrade per l'Italia, ma in che tipo, di che tipo e perché un rialzo così forte? Beh, il il rialzo è dovuto al fatto che nelle ultime settimane innanzitutto sembrava che il dossier dello scorporo dell'Atlantia, dello scorporo di Autostrade per l'Italia, scusate, fosse un po' rallentato nel suo percorso e ci fossero ancora divisioni ancora nei giorni scorsi sulla soluzione da trovare. Non per niente ieri Fabrizio Palermo, l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, aveva parlato di una trattativa tutt'altro che semplice, ma le indiscrezioni su una nuova modalità in cui potrà avvenire lo scorporo con la creazione di una nuova società quotata in cui finirebbe il 70% detenuto da Atlantia di Autostrade per l'Italia e su quella società verrebbe una ricapitalizzazione e soprattutto la valutazione implicita di Autostrade per l'Italia, si parla di una cifra intorno agli 11 miliardi di euro, ha portato diciamo, a questa speculazione, soprattutto perché si aspetta per il pomeriggio quello che è l'esito dell'incontro tra Palermo della Cassa Depositi e Prestiti e l'amministratore delegato di Atlantia Bertazzo, e domani ci sarà un consiglio di amministrazione straordinario da cui potrebbero arrivare delle novità. E quindi diciamo più che un'accelerazione, non un rallentamento, ma una ripresa dell'operazione di scorporo, ed è qui appunto il mercato che è andato a comprare in maniera molto insistita, e poi dall'8% si è passati appunto a un più 16,23% nel finale. Grazie anche Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, non sarà un approfondimento definitivo, ma iniziamo a fare i primi conti provvisori con l'andamento del settore turistico quest'estate, che non si è ancora conclusa per fortuna, ma già si fanno i primi consuntivi. Ora che sarebbe stata un'estate nera, quindi una delle peggiori, forse la peggiore dal punto di vista turistico, lo abbiamo detto ampiamente a maggio e giugno. C'era però, lo dico senza retorica, la speranza di essere smentiti in positivo, cioè che in realtà i dati sarebbero potuti essere negativi, ma non così negativi. Allora, vedo molti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 di ascoltatori che dicono: guardate, mi citano tantissime località, dalla Riviera Romagnola alla Riviera Toscana, all'Alto Adige, quindi i luoghi di montagna, al Trentino, guardate che era impossibile trovare un albergo. Ora io devo riportare i dati che ha diffuso oggi l'indagine Flash di Confindustria Alberghi, un preconsuntivo appunto, in cui si conferma una differenza anche molto importante tra gli alberghi delle città d'arte e gli alberghi delle località balneari, nel senso che nelle città d'arte i ricavi sono crollati del 70-90% rispetto al periodo giugno-agosto del 2019, gli arrivi sono più che dimezzati, meno 60%, e pernottamenti meno 70%. La cosa che a me ha sorpreso, adesso chiedo chiaramente verifica e conferma, è il dato anche sugli hotel delle località balneari, perché lo dico così un po' per esperienza diretta, ma non faccio mica lo statistico, e un po' per le segnalazioni che ci sono arrivate in queste settimane, in questi mesi, mi aspettavo un dato migliore. Invece Confindustria Alberghi segnala un meno 40%, che ho capito che è meglio, è quasi la metà rispetto al crollo delle città d'arte, ma ripeto, sul periodo è vero che giugno è stato un mese perso e che luglio molti albergatori hanno segnalato la capienza massima, o meglio il tutto esaurito solo nel fine settimana, però insomma speravo che, visto che il raffronto è giugno-luglio-agosto 2020 rispetto a giugno-luglio-agosto 2019, il dato fosse migliore: meno 40% nelle località balneari, meno 30% nelle località montane. Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente di Confindustria Alberghi, buonasera. Buonasera e grazie per averci chiamato. Senta, collega Jacopo, ripeto, sulle città d'arte non mi aspettavo niente di meglio, purtroppo, nel senso che le abbiamo viste deserte, sono mancati gli stranieri, che erano quelli che soprattutto contribuivano al fatturato anche alberghiero nelle città d'arte, e insomma le segnalazioni sono arrivate dappertutto. Però sulle località, diciamo, balneari e della montagna, fermo restando che giugno è stato un mese praticamente perso, lo sappiamo. Meno 40 vuol dire che non è solo giugno, forse, no? Allora, i dati si riferiscono a tre mesi. Prima cosa, i dati si riferiscono a tre mesi, quindi giugno, luglio e agosto. Mm-hmm. E questo è fondamentale, vuol dire. Quindi, come riassunto, su 90 giorni di attività, questi sono i dati. Poi, se nel mese di agosto gli italiani, ringraziando Dio, sono andati in vacanza e hanno riempito anche i nostri alberghi, soprattutto nelle destinazioni balneari, nelle destinazioni di montagna e nelle destinazioni di campagna, cosa che, non è, che aggiungo, questo è vero. Quindi la campagna, il mare e la montagna hanno lavorato bene in agosto, ma hanno avuto un giugno e luglio con dei numeri molto bassi. Inoltre, molti alberghi, soprattutto quelli della fascia lusso, non hanno lavorato per mancanza assoluta di stranieri e quindi in alcuni casi non hanno neanche aperto, mm-hmm. questo va detto, quindi ci troviamo anche davanti a questa situazione. E poi ci sono le città d'arte che invece hanno avuto seguito il crollo. Ora dobbiamo affrontare la chiusura dell'anno, anche questa con molte incognite. Ovviamente le preoccupazioni sono tantissime. Sì, è chiaro che se un albergo non apre fa meno 100% rispetto all'anno prima, e questo immagino impatti anche sulla media. Senta, il bonus vacanze, noi fin dall'inizio dicemmo, se non ricordo male anche con lei, che era molto complicato l'utilizzo, 70% veniva anticipato dall'albergatore, che poi andava in credito d'imposta, gli albergatori facevano notare: ma sì, il credito d'imposta, ma sì, incasso meno, non è questa la soluzione. È stato usato o no? Non è stato completamente usato il credito d'imposta, infatti su questo noi chiediamo al governo che alla fine dell'anno vengano rifatti i conti e quelle risorse destinate al credito d'imposta in ogni caso restino al turismo. Il credito d'imposta ha avuto delle difficoltà, ovviamente è stata anche un'occasione per un'opportunità per le famiglie italiane, ma era di difficile attuazione, questo è da dire. Poi per due ordini di ragioni, sia da parte del quindi devono avere una grande informatizzazione i nostri cittadini, sia da parte delle strutture che in alcuni casi non avevano le persone adatte negli alberghi per poter accedere al cassetto fiscale dell'impresa e poter appunto poter riscuotere il buono. Allora, vedo molti messaggi di ascoltatori che mi dicono: beh, ma guardate che non tenete conto del nero. Allora, del nero non teniamo conto mai quando parliamo di dati statistici, nel senso che il nero per sua definizione non è valutabile, dopodiché, per carità, nero riguarda tutto il paese. Nel settore alberghiero, onestamente, io vedo fare molte ricevute e anche molti pagamenti con le carte, proprio anche per l'ammontare, ma non voglio dire che non esista anche in questo settore una fetta di nero. Invece riporto quello che mi scrivono molti ascoltatori: io sono di Cervia, è stata l'estate più ricca degli anni precedenti, alberghi pieni, in Trentino tutto era strapieno. Sarebbe interessante capire, diciamo, qual è stato, siccome la stagione estiva, inutile girarci attorno, termina a settembre quando va bene, e nelle località poi c'è qualcuno che può arrivare fino a ottobre, sarebbe interessante capire questo meno 40%, dottoressa, quanta media di trilussa c'è dentro. Voglio dire, se dentro hai un albergo che non ha aperto, è chiaro che ti abbassa pesantemente la media, quello fa meno 100%, e poi vedere anche il recupero, diciamo, nel mese di agosto, che era il mese degli italiani. So anch'io che gli stranieri invece tendevano a venire anche a giugno e a luglio. Con la Jacopo. Allora, il problema è stato giugno e luglio. su queste destinazioni di cui stiamo parlando, per cui lei mi sta dicendo ma no, era tutto pieno. Io le dico, mi tolgo un attimo il cappello da presidente, mi metto un attimo il cappello da imprenditrice. Io lavoro in Umbria. L'Umbria ha lavorato benissimo, per esempio, come destinazione minore nel mese di agosto e una parte di luglio. Però tutto il mese di giugno è stata vuota. Quindi se poi si fanno le medie, le medie sono queste. Le porto un esempio per farlo anche capire meglio. Quindi non possiamo concentrarci su un mese. Cioè un mese non salva una stagione, no, non salva un anno. Poi io temo, ovviamente, fortunatamente in agosto queste destinazioni hanno lavorato. No, ma ora si sta ritornando, siamo in settembre, dico, sono in Umbria, stiamo ritornando ad un'occupazione intorno al 25%. No, anche perché, come segnala oggi la Coldiretti, mercati per noi molto importanti, messo Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna, ma i primi tre, che si erano ben mossi, anche perché sappiamo tutti che le vacanze sono state scelte se si poteva spostarsi in auto più che in aereo, per ovvi motivi, però sono di nuovo frenati dall'allarme di contagio, dalla ripresa dei contagi che c'è proprio in Francia, per esempio, e in Spagna, e magari penalizzano ulteriormente i turisti che volevano passare settembre in Italia. Per quello che riguarda la differenza tra quello che notano gli ascoltatori e quello che notano il dato aggregato, attenzione, perché noi come italiani da sempre tendiamo ad andare in vacanza tra metà luglio e agosto, ed è chiaro che la nostra testimonianza diretta è di alberghi molto pieni, è anche la mia, però ci dimentichiamo che gli albergatori anche nelle località di montagna e di mare lavoravano moltissimo a giugno e luglio con gli stranieri, e lì forse abbiamo meno testimonianza diretta, nel senso che a luglio al massimo hai visto quello che succedeva il fine settimana, ma non durante la settimana. Questo può forse spiegare la discrepanza tra il dato complessivo e quello che poi noi abbiamo testimoniato tipicamente nel mese di agosto. Grazie anche alla vicepresidente di Confindustria Maria Carmela Colaiacovo. È veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.